Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Cara Radio 24, passo molto del mio tempo all'estero e in tutta onestà non credo di frequentare i circoli dell'Internazionale Socialista. Tutt'altro. Anzi, gli unici ambienti politici che frequento con regolarità sono quelli del Partito Popolare Europeo a Bruxelles. Ed è proprio lì che mi tocca sentire le frecciate più aguzze sull'anomalia Berlusconi. E non credo che sia ammissibile da parte di noi italiani liquidare l'anomalia con la sola contestazione del fatto che sia, per l'appunto, una anomalia. Quasi questo bastasse a renderla meno anomala. Sarò chiaro, secondo me la testimonianza più lampante del fatto che la libertà di stampa è limitata nel nostro paese è il fatto che di questa anomalia non si sente più parlare. Ormai è accettata come un dato di fatto, non negata, badate bene, praticamente nessuno la nega, ma sdoganata dal fatto che ci sono state 3 elezioni che stiamo a parlarne ancora. Non fa notizia. E se all'estero ci sbattono al 44esimo posto nella classifica dei paesi per libertà di stampa, non ci viene in mente che questa anomalia grossa come una casa sia il macigno che pesa sul nostro sistema, a cui ormai ci siamo assuefatti e che non vediamo più. Certo, se Berlusconi cominciasse a chiudere giornali e a imporre il coprifuoco, non la passerebbe liscia. Molto meglio piccole correzioni, una leggina che vieta di pubblicare sentenze non secretate, un giornalista non allineato che si ritrova senza contratto, un altro che si ritrova senza tutela legale, un po' di pubblicità in meno ai quotidiani scomodi. Non li vogliamo mica spaventare, i Belpietro, i Ferrara, i Cruciani, o no? Sì, ogni tanto c'è un Paolo Guzzanti, un Filippo Facci o un Massimo Fini che si spaventano, ma è facile farli sparire mediaticamente. Avete notato che Guzzanti compare solo sul suo blog? Molto più sicuro, direi molto più astuto ed efficace. Cosa diceva Baudelaire? Ah sì, il peggior inganno del diavolo è quello di persuaderci che egli non esiste. Cordialità, Gianni. Gianfranco Funari era un uomo volgare. Della volgarità aveva fatto un mezzo comunicativo. Gianfranco Funari era un uomo ignorante o impersonava tale personaggio, ma sapeva parlare alla gente comune. Gianfranco Funari, da metà anni 80 fino a quasi fine anni 90, fu un popolare e seguito presentatore di trasmissioni di informazione. Si definiva il giornalaio e si serviva di un certo populismo per la sua popolarità. Aveva un rapporto diretto con il pubblico. Tutto nelle sue trasmissioni era organizzato a questo scopo e il risultato d'ascolti gli dava ragione. Gianfranco Funari non aveva una casacca per la sua stessa indole populista e popolare. Non era assimilabile a nessun partito. Chiuso nella stretta del duopolio, decise di inventare il terzo polo. Una rete di televisioni locali che lo mandassero in onda simultaneamente, realizzando così una copertura nazionale per la sua trasmissione. Idea rivoluzionaria per la metà degli anni 90. Propose pubblicamente ai vari Santoro, Costanzo, Chiambretti, Mentana e a tutti gli eterni censurati di seguirlo, di tentare questa impresa che lui aveva provato e nei fatti realizzato. Occorreva, diceva, creare un intero palinsesto da opporre alle corazzate Rai e Mediaset e il mercato editoriale sarebbe rinato. Un silenzio disarmante fu la risposta dei cavalieri erranti della libertà di stampa. Funari resistette per più di un anno, ma sole 2 ore di trasmissione non potevano impensierire le corazzate. Quell'uomo rozzo e ignorante ebbe la cognizione più esatta della mediocrità dei cavalieri della libertà di informazione, molto bravi a pretenderla, ma incapaci di rischiare per essa. Non sono servi, sono liberi intellettualmente, ma sono incapaci di capire che la vera libertà la si conquista sul mercato, diventando gli editori di se stessi. Quindi, per quanto mi riguarda, nessuno pianga i mali che si è procurato. Massimiliano. Caro direttore, da piccolo imprenditore le chiedo un grosso aiuto per decriptare i messaggi degli esperti riportati dai quotidiani. Primo titolo. La recessione è finita e si vedono i segni della ripresa che comunque sarà lenta e fragile. Invece io da qui vedo ordini smilzi, all'ultimo momento, e unica sicurezza un aumento della materia prima a fronte di una pressante richiesta di sconti da parte dei clienti. Secondo titolo. Il valzer della finanza è già ripartito. Negli Stati Uniti continua la corsa ai titoli tossici. Invece, come piccole imprese, siamo ancora in alto mare per quanto riguarda la chiarezza di rapporto e di regole con le banche. Unica chiarezza, pagamenti sempre più lunghi e insoluti, rimborsi della cassa integrazione utilizzata che non arrivano, tasse puntualissime a fronte di rimborsi di tasse pagate senza doverle, come errori, eccetera, che arrivano dopo anni ritassati. Se tutto ciò non bastasse, siamo alla fine dell'anno, quindi chi deve fare ordinativi è bloccato perché il materiale a magazzino equivale a una tassazione che sarebbe troppo pesante. Io vorrei fermare i ragazzi in officina, come faccio spesso, per ragguagliarli su ordinativi, andamento della situazione, spese e guadagni, rapporti qualità, eccetera. Cosa posso dirgli? Mi firmo ancora vivo da Bologna. Rudy. Caro direttore, sono un docente a contratto del corso di rischio geologico e idrogeologico presso la Facoltà di Ingegneria, sede di Rieti, della Sapienza di Roma. Le chiedo di comprendere lo spirito con il quale sto scrivendo questa lettera. Fra poche ore, alle 9:30, dovrò tenere ad una ventina di studenti una lezione sul rischio da inondazioni. Spiegherò loro come si calcola il rischio dal punto di vista ingegneristico. Parlerò di analisi statiche più o meno raffinate per lo studio delle precipitazioni. Presenterò modelli per calcolare la probabilità del verificarsi di piene straordinarie. Accennerò loro la disponibilità che esiste oggi di software potentissimi in grado di simulare in 3D la propagazione delle onde di piena in un centro abitato. Quindi passerò a spiegare cosa la normativa prevede. Parlerò delle classi di rischio in cui viene imposto agli enti competenti di suddividere il territorio e della pianificazione che ne deve conseguire. E, introducendo la normativa, non potrò non parlare della tragedia di Sarno del 1998, da cui la normativa di riferimento discende. Non avrò problemi a tenere la lezione, sono argomenti che ho studiato, su cui sono preparato. Ma cosa risponderò se appena entrato mi chiederanno un parere su quanto accaduto a Messina? Cosa mi potrò inventare per convincerli che le cose che studiamo possono trovare applicazione anche nel nostro paese, senza per forza dover andare in Trentino Alto Adige? Sarò capace di trovare anche un solo motivo per giustificare il tempo speso sui libri, quando so per esperienza che la gran parte di studi che produciamo per una certa pubblica amministrazione fanno la muffa dentro mobili e cassetti? Cordiali saluti, Matteo. Gentile Radio 24, io non capisco il ragionamento, e l'ho sentito anche sulla vostra radio, di chi dice che non è appropriato contrapporre la costruzione del ponte sullo stretto di Messina alla necessità di migliorare le strade, le autostrade, le ferrovie e, più in generale, i servizi, ad esempio la distribuzione dell'acqua al sud e in Sicilia. Ma è davvero possibile realizzare tutte queste cose contemporaneamente? Immagino che i soldi disponibili non siano infiniti, che aprire tutti i cantieri insieme possa essere problematico, che attrarre finanziamenti privati su tanti fronti diversi possa essere difficile. Io credo che sia una scelta politica quella di dare priorità a certe opere, a certi interventi o ad altri. Dunque una scelta discutibile e non scontata. Per quanto posso capirne io, il ponte è una grande opera che per moltissimi aspetti può dare risultati positivi, perciò non sono contrario a costruirlo. Ma non mi sembra corretto spendere tanti soldi, tante energie, tanto tempo su di esso prima di aver realizzato tutte quelle opere riguardanti l'acqua, le strade, le ferrovie che servirebbero a portare quel territorio alla soglia minima di civiltà e vivibilità. In parole povere, io credo che il Sud, in particolare l'estremo Sud e la Sicilia, viva una situazione di emergenza in quanto non vi sono realizzate le condizioni minime per parlare di normalità. Dunque, prima di tutto, risolvere questa emergenza con priorità assoluta, poi fare il ponte di Messina. Ovvio che se non fare il ponte si traducesse nel non fare niente, nel non sanare questa emergenza e nel continuare a lasciare tutto com'è, allora saremmo doppiamente cretini, cornuti e mazziati. O c'è un'urgenza assoluta del ponte di Messina che mi sfugge? Lettera firmata. Caro direttore, scrivo da Santa Flavia, un piccolo comune attaccato a Bagheria nella provincia di Palermo. Da una settimana, a causa dell'ennesimo guasto alle condutture idriche, siamo senza acqua. In realtà qui, in condizioni normali, l'acqua arriva un giorno sì e uno no, per la media di 3 ore al giorno. Ho scritto al comune richiedendo in maniera provocatoria l'annessione della comunità al Burundi, ma ovviamente alla mia provocazione non si sono degnati nemmeno di dare una risposta. Il risultato è che stasera dovrò chiedere ospitalità ai miei genitori a Palermo, visto che ho esaurito le scorte idriche dei miei recipienti. Così, con mia moglie e i miei due figli, tra cui il piccolo Marco di 8 giorni, dovrò fare il terremotato. Le racconto questa mia disavventura perché nel dibattito attuale legato alle gabbie salariali, io introdurrei il concetto di gabbie salariali legate ai servizi ottenuti in cambio. Io e mia moglie siamo dipendenti di 2 grosse aziende nazionali e quindi paghiamo sino all'ultimo centesimo di tasse, senza ottenere ovviamente alcun servizio valido in cambio. La tragedia è che i disservizi non finiscono con l'acqua. Noi, ad esempio, viviamo in mezzo alla monnezza. Il tutto ovviamente con il silenzio dei media, per non parlare poi del fatto che pago 400 euro mensili di asilo nido privato per il tempo pieno di mio figlio. Non saprei dove andare altrimenti. Non parliamo poi di sanità, per carità, perché occorrerebbe scrivere una lettera a parte. A questo punto io vorrei pagare le tasse proporzionalmente ai servizi ottenuti in cambio, cioè stile Burundi, appunto. Saluti, Maurizio. Gentile direttore, purtroppo il rischio di cadere nei luoghi comuni è molto alto. Tuttavia il fatto che siano passati già 10 anni di lavoro per la vostra radio non possono e non devono essere sottovalutati né tantomeno rapidamente archiviati. Chi le scrive è un ex conduttore radiofonico professionista che nell'arco di più di 20 anni di lavoro in questo settore ha dato l'anima per la radio. Ma non è di me che voglio parlarle. È di voi, del vostro insuperabile lavoro e della vostra emittente su cui, in questa mail, voglio dilungarmi a parlare. Quando vi siete buttati in questa impresa ero molto scettico. Vi ho seguito fin dagli inizi e il concetto di una radio di servizio, praticamente solo parlata, mi trovava sospettoso. Ebbene, gentile direttore, mi sono ovviamente ricreduto. Siete riusciti a bucare un settore con una tecnica mai utilizzata, quella della parola. Parola che al tempo stesso diventa interesse, attualità, informazione, curiosità, notizie, in un unico contenitore radiofonico, fruibile dalla maggioranza. Ovviamente per realizzare ciò ho capito che vi siete avvalsi di professionalità rare, ma sa, direttore, non è facile trovare tutte queste varie umanità e riuscire a metterle al posto giusto, ma anche amalgamarle in maniera armonica, come è il vostro caso. Ergo, 1110 anni di vita a questa impresa che in qualche modo colora le nostre semplici esistenze. Grazie di tutto, direttore. Ne sono sinceramente molto grato. Buon compleanno a tutti voi della radio e buon lavoro. Marco. Caro Marco, ho scelto la sua lettera tra le tante che ci sono pervenute per festeggiare con noi i 10 anni di Radio 24. Grazie mille, innanzitutto. L'ho scelta perché ricorda 2 punti fermi dell'impegno quotidiano di chi questa radio ha costruito in passato e costruirà in futuro: la professionalità e l'umanità. La professionalità, cioè la capacità e insieme la volontà di fare bene il proprio lavoro. Un lavoro che richiede forti personalità, ma anche la volontà di impegnarsi in gruppo, di mettere a disposizione i propri talenti per un impegno che deve essere insieme individuale e collettivo. E poi l'umanità, cioè la sensibilità per i valori più veri e profondi della persona, la capacità di essere testimoni appassionati del mondo che ci circonda, alla ricerca di tutto quello che può rendere ognuno di noi più attento, più responsabile e, se possibile, un po' più felice. Professionalità ed umanità. 2 punti fermi in questi primi 10 anni di Radio 24. 2 ingredienti indispensabili perché la passione si senta. Grazie Marco e grazie a tutti coloro che ci hanno scritto e fatto gli auguri. Ma grazie anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. Siete voi il vero patrimonio di Radio 24. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.